Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vi descrivo il mio fine settimana da appassionato di sport e TV. Sabato, finale Heineken Cup di rugby. La squadra sconfitta si mette ai piedi del podio e applaude senza ipocrisia i vincitori. Ma si sa, il rugby è uno sport dove non girano molti soldi. Domenica, Gran Premio di Monte Carlo. Button vince e involontariamente fa passerella di corsa lungo il rettilineo d'arrivo, dove ci sono tutti i meccanici delle squadre avversarie che, affacciandosi dal muretto, lo applaudono. E qui di soldi ne girano. Domenica, calcio inglese, dove tutte le squadre fanno il loro dovere, dove tutti i tifosi fanno altrettanto. Applausi ai vincitori e onori agli sconfitti. Anche qui di soldi ne girano parecchi, ma sono sterline. Sempre domenica, calcio italiano. Una squadra viene aggredita perché ha osato vincere, ma non dovrebbe essere l'obiettivo di tutti gli sport? Un campione come Maldini che viene fischiato dai propri tifosi. Dov'erano quando alzava la sua quinta Coppa dei Campioni? Qui soldi ne girano. In conclusione, dico che possono girare pochi o molti soldi, ma quando girano gli idioti non c'è niente da fare. Se il calcio italiano nel suo complesso fosse pagato in base agli idioti che circolano tra tifosi e addetti ai lavori, potremmo fregarcene della crisi. Paolo D'Asti, disinnamorato del calcio italiano. Non capisco come mai tutti o quasi tutti i telegiornali abbiano dato così peso ai quattro imbecilli che hanno contestato Maldini. Io ero allo stadio e vi garantisco che la gran parte degli spettatori ha applaudito Maldini ad ogni tocco di palla e soprattutto nel giro di campo finale, senza nemmeno accorgersi dei poveri deficienti. Purtroppo le squadre possono cambiare presidenti, giocatori, allenatori, eccetera, ma questi soggetti dobbiamo tenerceli. Almeno ci aiutino i mezzi di informazione dando loro il giusto peso, praticamente zero. Andrea. Mi sembra quasi incredibile, ma il nostro calcio riesce sempre a stupire in negativo. A certe baruffe da esaltati, in campo e fuori, purtroppo siamo abituati. Ma riuscire a contestare Paolo Maldini nel giorno del suo addio al calcio è, anche se sicuramente meno grave di altre situazioni, il sintomo di quanto in basso stia cadendo questo sport. Da amante del bel calcio e da milanista dico grazie Paolo per tutto quello che ci hai dato. Davide. È opportuna una premessa. Voto per la destra e per Berlusconi sin dagli inizi. Ora però sono irritato. Sul piano politico il governo ha dato prova di concludere su alcuni temi. Napoli, la pubblica amministrazione, la scuola, la riforma dell'accordo salariale, anche se avrebbe potuto fare di più. Su altri c'è una maggiore delusione. Vedi, tassazione non rivista, incentivi per la ripresa dei consumi solo parziale, eccetera. Quello che mi dà più fastidio è il comportamento personale. Non mi riferisco agli incontri ufficiali quando, come dice qualcuno, fa lo scolaretto o l'amicone. Mi dà fastidio la vicenda Noemi, le foto apparse su un rotocalco del presidente circondato da ragazzine, gli apprezzamenti eccessivi, che anche se detti credo con lo spirito e la voglia di essere simpatico, non sembrano considerare l'altra persona. Trovo la situazione ambigua per il ruolo pubblico che il presidente ricopre. Hanno detto che sta cercando di imparare ad essere uno statista, ma credo ci sia ancora molto da fare. Franco. Perché non si parla mai del signor Sircana, consigliere di Prodi, beccato in situazioni ben più disonorevoli qualche anno fa? La vicenda aveva fatto parlare per qualche giorno e poi più nulla. Per Berlusconi, invece, Andrea. Non sono anti-berlusconiano, ma mi viene il dubbio che il gioco a stravincere di Berlusconi non giovi alla crescita democratica del paese. Al di sopra della legge, egli pone e impone il proprio senso del giusto, avendo purtroppo spesso ragione. Al di sopra della morale, egli pone se stesso. Il problema non è che anche Berlusconi, come tutti, commetta i suoi peccati. Infatti, se fossero confessati, potremmo togliergli la fiducia di pubblico amministratore, senza sconfinare nel giudizio della persona. Ma che passi l'idea che i peccati che potrebbe aver fatto lui non sono più peccati. Umberto. Egregio signor direttore, osservo come il progetto di ridurre il numero dei parlamentari sia tornato prepotentemente di attualità. A me il progetto piace, ma è tutto qui il mega progetto politico che permetterà all'Italia di togliere i suoi malanni. I giornalisti che scrivono grandi titoli per questo evento, cosa ne pensano? Personalmente questo progetto lo paragono al lavoro del pasticcere, che pone in vetrina la torta che ha appena terminato di preparare. Già, ma la politica italiana non ha preparato torte, per cui in vetrina mette solo una foto della torta. Gli italiani, popolo che mi pare non molto attento al proprio destino comune, forse sono contenti così. E così il politico di turno fa il suo grande figurone. Ma domani non ci sarà nulla di cambiato rispetto ad oggi, tranne una foto in vetrina, forse per abbellirla un po'. Con questo voglio dire che l'eliminazione dei parlamentari non cambia nulla o quasi di quanto non va bene in Italia. Chi domani mi garantirà che saranno dimezzati i parlamentari, ma si raddoppieranno invece i portaborse? Il cittadino qualunque, l'uomo della strada, sa che esistono 8.100 comuni, 104 province, 20 regioni, qualche migliaio di consorzi tra enti pubblici, un parastato enorme, aziende pubbliche, con gli amministratori dotati di auto blu qualunque sia il loro bilancio, commissioni di ogni genere che danno spazio a 500.000 persone che vivono o incrementano il loro reddito da introiti derivanti dal loro lavoro politico? Quanti sono gli enti che si potrebbero tagliare? A cosa servono i politici in enti al di sotto dei 50.000 abitanti, dove la maggior parte delle loro incombenze sono solo meri lavori esecutivi? Se mi fosse chiesto di firmare una proposta di legge popolare in cui si chiede solo di ridurre i parlamentari, non avrei altro che dire no grazie. Per così poco e così in basso, non scendo. Agostino. Il nostro è un paese strano, nel quale non si stanno dando risposte efficaci alla crisi economica in corso. Di fronte alla crisi, tutta Europa si è mossa. L'Italia no. Forse non tutti sanno che il governo Berlusconi è l'unico a non aver stanziato risorse vere per contrastarla. Lo dice il Fondo Monetario Internazionale. Dice che siamo fermi allo 0,2% del PIL contro il 2,3% della Spagna e l'1,6% della Germania, solo per fare due esempi. La realtà è che per sostenere i salari e gli stipendi degli italiani, tra i più bassi d'Europa, le misure del governo sono state al momento del tutto insufficienti. E questo mentre l'Unione Europea stima un tasso di disoccupazione, oggi al 6,8%, in aumento fino all'8,8% nel 2009, con previsioni del 9,4% nel 2010. Vorrebbe dire 2.300.000 disoccupati, 600.000 in più di oggi. Nel nostro paese metà dei dipendenti del settore privato, vale a dire circa 7.5 milioni di lavoratori, non ha gli ammortizzatori sociali e non li hanno nemmeno i 3 milioni di persone che lavorano con un contratto precario. Il governo però ha deciso di puntare dritto su politiche sociali ad effetto mediatico, come quella targata Social Card, un vero e proprio fallimento. Doveva andare a 1.300.000 cittadini, ma al 5 aprile scorso solo 517.000 carte erano cariche, per non parlare dei disagi nel suo utilizzo e del fatto che alle risorse destinate alla carta, 450 milioni di cui solo 200 stanziati dal governo, è corrisposta un'equivalente riduzione dei trasferimenti per i servizi offerti dai comuni. La realtà resta quella descritta dal rapporto Istat. A vivere in povertà oggi sono 2.653.000 famiglie e 7.542.000 individui. La realtà è quella di una sanità pubblica pesantemente colpita dai tagli. Forse non tutti sanno che in un paese in cui un lavoratore su 8 è precario, il governo introduce il divieto di reintegro in seguito a sentenza del tribunale e blocca la stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni, avviata a suo tempo dal governo Prodi. E la realtà così è che entro luglio perderanno il posto, dopo aver lavorato per anni, più di 50.000 persone. E se una donna lavoratrice vuole diventare madre, oggi più di ieri, rischia di essere licenziata. Il governo ha deciso la soppressione della legge che evitava la piaga delle dimissioni in bianco, quelle pretese dal datore di lavoro al momento dell'assunzione. Luca, Firenze. Caro direttore, mi chiedo e le chiedo, com'è possibile che a 10 anni dall'introduzione dell'euro ancora siamo costretti a sorbirci lamentele in cui si incolpa la valuta unica d'aver fatto raddoppiare o comunque aumentare i prezzi? Sottolineo 10 anni perché ancora in molti non sanno che l'euro non è nato nel 2002, ma nel 1999. Dal 1999 è in corso a tutti gli effetti economici e finanziari, con la sua quotazione regolare rispetto alle altre valute, è già utilizzabile in assegno e bancomat. Spero di non essere frainteso. Abbiamo visto tutti che gli aumenti sono stati reali. Non certo tutti raddoppi automatici, ma ci sono stati e come. Sono iniziati dopo 3 anni che l'euro esisteva, però. Guarda caso al momento della sostituzione del vecchio contante degli stati con quello unico europeo. Allora, che senso ha questo associare in continuazione euro e aumenti? Non è stato l'euro a provocarli. Abbiamo in mano una valuta che si sta dimostrando fra le più stabili e pregiate al mondo e continuiamo a lamentarci. Fra l'altro, dopo che i governanti di stati come Danimarca e Svezia hanno ammesso apertamente la pericolosità o quantomeno lo svantaggio di non avere l'euro e l'Islanda che implora l'ingresso nell'euro. Sergio, Pavia. Gentile direttore, ho visto nei giorni scorsi i giornali dare grande spazio al fatto che i lavoratori italiani hanno salari medi più bassi, molto più bassi dei loro colleghi europei. Si è detto anche che questo deriva dall'alto livello delle tasse che gravano sui redditi di lavoro. Da una parte, anche se è rituale, bisogna ricordare la necessità di accentuare la lotta all'inflazione. Dall'altra, tuttavia, non è il caso che il governo, soprattutto in una fase di crisi come questa, mantenga le promesse di ridurre le imposte? Alfredo. Caro Alfredo, la risposta è sì. Proprio nei momenti di crisi e di difficoltà c'è bisogno di coraggio e di fiducia. Coraggio nel fare le riforme necessarie e fiducia nella possibilità di uscire dalle difficoltà. C'è bisogno di una scossa ai consumi e alla qualità della vita. Una riduzione significativa delle tasse potrebbe aiutare la ripresa più di tante dichiarazioni di ottimismo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.